Innamorati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Eh sì, a Pirlo proprio non è in serata. Io credo che la storia è la sua, è un po' così, no? Che nel campionato sta bene, ma nella Champions fai fatica. Ma noi dobbiamo cambiare questo, no? Se pensiamo essere una grande squadra, dobbiamo cambiare questo, che è difficile, ma possiamo con i giocatori che noi abbiamo. Creo que podemos cambiar esto, ¿no? Pienso que sí, yo pienso que está todo en la testa de noi y depende solo de noi. Ancora Morata, si gira Morata, Roberto incredibile, sta inserendo Vidal, Pogba, quasi un tiro, Roberto fa due passi indietro, Vidal mette indietro, attenzione a Tevez, arriva lui, Roberto ancora, incredibile, Vidal, il cross per lui, Roberto, quasi ingannato dal movimento di Abidal, poi la reazione di un gatto. Pallone rimane lì, Morata! Roberto incredibile! Un miracolo incredibile! Avevi fatto qualcosa, qualche dispetto a Roberto, ha fatto dei miracoli, ti ha preso praticamente tutto quello che hai tirato verso la porta. Sì, ha fatto una grande partita Roberto, per me è uno dei migliori portieri del mondo e ancora devo lavorare di più per la prossima partita a fare gol. Abbiamo sbagliato molto in fase realizzativa e così non siamo riusciti a venire via con un risultato positivo, però credo che alla fine sono molto amareggiato e dispiaciuto. Ripeto, potevamo far meglio il primo tempo, però il passaggio del turno è tutto aperto e credo che ce lo giocheremo nelle tre partite che rimangono, secondo me con ottime possibilità di passare. Vabbè, se Claudia Schiattone, il professor Alessandro Marco Tulli e Roberto Scaltretti in regia volevano deprimermi, ci sono riusciti, quasi quasi mi viene voglia di fare come l'altro giorno e di parlare manovra così il bonus bebè, Renzi all'Unione Europea, voltare pagina e di altre notizie un po' più amene. Giovanni Capuano è tornato a trovarci perché si diverte molto. Sì, tra l'altro ho scoperto che c'è un altro portiere spagnolo che è uno dei più forti del mondo. Dopo Diego Lopez c'è anche Roberto. Quel tamarro di Roberto. Fino a ieri non conoscevamo. Diciamo la verità, come Sicciotto Dominguez. Sicciotto Dominguez. Conoscevamo Casami, perché l'avevamo visto pochino al Palermo. Questo per dire che poi dopo noi racconteremo che la Juve ha fatto un assedio, non meritava di perdere. Che in Europa insomma si gioca a un altro livello. Ecco, io mi chiedo a tutti Casami nella Juventus di Allegri, che ruolo avrebbe Pier Casami? Ave todos, che ruolo avrebbe? Oltre il diciottesimo? Sì, beh, sicuramente. Guarda, io penso questo, che abbiamo assistito a due sconfitte con due errori. Roma e Juve hanno sbagliato due partite per il motivo contrario, cioè hanno commesso una l'errore opposto a quello dell'altra. La Roma se l'è giocata, ne abbiamo parlato ieri, in maniera forse troppo spregiudicata e troppo sicura, al limite di sembrare quasi presuntuosa, contro una squadra fortissima e dopo il 2-0 non ha più toccato palla. La Juve di contro è stata forse troppo timida, troppo prudente, ha tolto il difensore solo al 77esimo, ha sbagliato l'approccio alla partita, non è stata la squadra dominatrice che poteva essere. Poi ovviamente ci sono state le parate del portiere che sono chiaramente decisive, insomma il calcio è anche episodi, però insomma la Juve non si è messa nelle condizioni migliori per poterla vincere questa partita, no, forse nelle peggiori. Poi come fa Buffon a dire abbiamo giocato un primo tempo normale, cioè se questa è la normalità. No, ma è normale, era un modo secondo me per dire bruttino. Allora si dice bruttino o si dice pessimo? No, si dice normale. Sì, no, sono d'accordo, per fare una comparazione secondo me col secondo tempo che è stato sicuramente migliore. No, rimane un grande rimpianto, proprio perché al di là di tutto sì, puoi recriminare sugli interventi eccezionali. posizione del portiere, ma non dovevi metterti in quella condizione lì. La Juve è più forte dell'Olympiacos e quindi adesso l'anno scorso era più forte di quella che hanno sbattuto fuori. Conta sempre il campo, perché il portiere è uno degli avversari, perché il campo, la neve sul campo può essere un fattore, perché anche il Copenaghen gioca a pallone e tutte queste cose. Oggi la Juventus proverà a consolarsi, dicono e scrivono, inchiostrando il contratto di Pogba fino al 2016, 4,5 milioni di euro più bonus a stagione, così dicono le ultime notizie. Pensavo gufando contro quanto il Toro, visto che va di moda la questione. I romanisti si sono ripresi dopo una giornata terribile. Visto che c'è quest'aria cupa e questa musichetta greca che mi manda ai pazzi, vorrei tirarmi un po' sul morale convocando i gufi romanisti, che sono gli unici contenti oggi, perché anche oggi è un giorno per gufi. 800 24 00 24, numero verde, vi aspettiamo qua. Però è anche vero che c'è il rammarico per aver fatto un primo tempo, diciamo, normale, ecco. Se avessimo fatto tutta la gara come la ripresa, il risultato non sarebbe stato questo. Complica un po' il cammino? Beh, certo, ogni sconfitta complica il cammino per qualsiasi tipo di obiettivo, ecco. Tutti convocati. Attenzione, Pirlo con la maledetta, è pronto col destro. Attenzione, Pirlo prova, ma sbaglia. Sembra proprio non essere serata per Pirlo, qui proprio colpisce malissimo, non è minimamente pericoloso. Ma non sono assolutamente preoccupato, perché Andrea ha giocato poche partite quest'anno e ha saltato per infortunio 40 giorni di allenamento. È normale che ha bisogno di ritmo, di partite, e stasera tra l'altro l'ho fatto giocare perché avevo bisogno davanti alla difesa di uno che magari mi gestisse, soprattutto nel primo tempo, dove loro magari credevo, e così è stato, correvano molto, ci potesse rallentare la loro pressione, ci potesse far uscire con molta facilità da questo. Però credo che non ci sia, da parte mia non c'è nessuna preoccupazione per Andrea, per la sua condizione, e credo che ritornerà a essere quello che è sempre stato. Vediamo quando. Non mi sembra male usare una partita di Champions per fare un po' di minuti. Per far allenamento a Pirlo. Abbiamo chiesto in prestito a Fox Sport uno dei loro più illustri talent, Fabrizio Ravanelli. Ciao. Ciao a tutti. Ciao Fabrizio. Ciao. Potrebbe essere davvero un problema Pirlo? Potrebbe essere un problema diplomatico Pirlo? Perché la Juventus è stata migliore fin qui senza di lui, conosciamo i trascorsi tra Allegri e Pirlo, dunque? Ma è difficile dare un giudizio da fuori, sicuramente Pirlo è all'occhio di tutti che non è in condizione, quindi in questo momento è un peso per la squadra, perché a centrocampo lo prendono quasi sempre in velocità, soprattutto squadre dove fanno delle loro qualità, l'aggressività, il carattere, la determinazione, la combattività, come era l'Olympiacos ieri sera. E lui ha faticato molto perché in questo momento non è in condizione, sbagliava anche gli appoggi, c'erano delle grosse ripartenze nel primo tempo e quindi l'aiuta in grossa difficoltà. In questo momento credo che, secondo il mio punto di vista, vedendo le sue performance sia con il Sassuolo che ieri con l'Olympiacos, sia un momento fuori condizione. Credo che la Juventus abbia tanti giocatori per poter magari sostituire anche un grandissimo campione come Pirlo. Certo, però se Allegri lo mette in panchina comincia una ridda di voci, no Pardo, che non finisce mai. Sì, io ho la sensazione che in qualche modo Allegri si sia fatto prendere, poi a carità lui ha sotto mano la situazione tutti i giorni, quindi avrà avuto i suoi motivi, mi fido, però il sospetto che lui abbia voluto, penso per esempio alla partita contro la Roma, la partita del ritorno di Pirlo, dare subito la dimostrazione che non aveva niente contro Pirlo, io questa sensazione ce l'ho avuta proprio in quella circostanza e la sto avendo adesso, nel senso che è chiaro che da un lato Pirlo deve essere recuperato, non ci sono dubbi, quello che dice Allegri è giusto, i 40 giorni di stop sono oggettivi, non sono un'opinione, sono la verità. Però è anche vero che intanto la Juve sta giocando partite fondamentali per il suo futuro in Italia e in Europa, e forse un po' di smania di voler dimostrare al mondo quello che io personalmente sono sicuro che sia, cioè che lui non ha niente contro Pirlo e che quella storia di qualche anno fa è stata una storia più contrattuale che tecnica. Secondo me un po' di questa smania ce l'ha, perché gli sta dando delle occasioni e forse in questo momento poteva fare delle scelte diverse. E magari la Juve non si può permettere questi tempi, no? Sì, ma a me ricorda abbastanza quello che è successo l'anno scorso nella seconda metà del campionato al Milan, dove Balotelli giocava sempre comunque, e poi noi eravamo qui a raccontare, Pier, se ti ricordi, che il Milan giocava meglio con Pazzini davanti, ad esempio. Però tenere fuori Balotelli per mille motivi era difficile, era forse impossibile. Mi piacerebbe sapere da Fabrizio, che su una panchina c'è stata, se poi davvero gli allenatori sono condizionati esternamente da queste cose. Ma potrebbero essere condizionati, ma io credo che uno che voglia fare l'allenatore, con tutto il rispetto, io ci sto provando da poco, Allegri ha anche vinto, quindi non credo che abbia bisogno dei miei consigli, ma credo che se dovesse cadere in una cosa del genere, come diceva Pardo, credo che sia veramente debba cambiare mestiere, perché un allenatore che debba essere e dimostrare all'Italia intera che non ha niente a che vedere e far giocare un giocatore che non è in condizione, si taglia le gambe da se stesso, come c'è un proverbio un po' più brutto da dire, non è uno che si taglia le palle per far rispetto alla moglie. E quindi credo che con tutto il rispetto, è l'allenatore della Juventus, credo che anche quando Pirlo non c'era ha dimostrato il proprio valore, quindi credo che mi sembra un po' strano che un allenatore così intelligente come possa essere Allegri possa mettere in campo un giocatore non in condizione, al di là di tutto, per poter dimostrare che lui con Pirlo non abbia niente. Poi dopo magari se ti mandano a casa, credo che quando uno faccia l'allenatore deve sempre decidere con la propria testa, non debba mai ascoltare nessuno intorno. Su questo sono d'accordo, ci ha messo anche troppo tempo secondo te, Morata più vivo di Llorente ieri sera si è visto, ci ha messo anche troppo tempo a fare questo cambio, cioè Morata, Llorente a me è un giocatore che piace, è un giocatore molto utile, magari Tevez trova più spazi con Llorente che gli apre mille porte magari con la forza, però abbiamo visto ieri sera che Morata è un po' più vivo di lui. Io penso proprio di sì, credo che la Juventus tutte quelle occasioni da gol in Champions League in questi ultimi tre anni credo che non l'abbia mai avute, perché onestamente ieri sera ha avuto tante occasioni per poter far gol e non ci è riuscita, la bravura del portiere o per magari qualche imprecisione sotto porta, però questo giocatore è veramente la forza della natura, perché corre dappertutto, pressa tutti e ogni ripartenza può essere un'occasione da gol. Llorente sì, è un bravo giocatore, ma io non lo metto tra quei giocatori che possa fare la differenza in Champions League. Nel campionato italiano la può fare, ma in Champions credo che ci vogliano altri giocatori per poter fare la differenza. Beh, duretto giudizio di Fabrizio Ravanelli, a Pardo. No, bello deciso, bello secco. È onesto, è onesto. Un buon giocatore, c'è stata quella data straordinaria che ha fatto con il Bilbao, nella quale ha segnato tantissimo, però stiamo parlando, io sono d'accordo, stiamo parlando di una categoria di ottimi attaccanti che sono però un filo sotto e fuori classe, su questo credo che non ci siano grandi dubbi. Sono d'accordo con Pardo, era questo che volevo dire, è un ottimo attaccante, ma per poter fare la differenza in Champions League credo ci vogliano essere giocatori come Tevez. Credo che tra Tevez, per dire, e Llorente ci sia una grossa differenza, tutti lo diciamo, anche alla vigilia della partita ci attaccavamo tutti alla bravura e alla, come si dice, alla sua capacità di trascinare la squadra di Tevez. Llorente sì, è un buon giocatore, ma credo che non sia uno di quei giocatori che ti possa far fare il salto di qualità in Champions League. Sei un po' deluso da Tevez e Pogba? Tevez ha fatto quella fiammata col Malmo all'inizio, si è tolto il problema del gol che non arrivava in Champions, però diciamo la verità, a Madrid e ieri sera ad Atene non è stato l'uomo in più, il trascinatore, il top player, lo dicevi anche te, che alla Juventus serve a questi livelli. Ieri sera ha fatto una partita da 5,5. Sì, però non ci possiamo sempre solo attaccare un giocatore quando magari sbaglia una partita, perché sennò poi facciamo sempre, secondo me, cadiamo nell'errore che abbiamo sempre fatto nel giudicare anche Ibrahimovic quando il Milan non riusciva a vincere la Champions League. Tevez rimane sempre un giocatore fondamentale. Io, parlando anche qualche volta con Antonio, mi diceva la forza di Antonio Conte, mi diceva la forza di questo giocatore, la professionalità, la... anche ai tempi quando giocavo con la Lazio, parlando con Simeone, mi diceva che era un giocatore veramente straordinario. Quando si vede in campo, con l'atteggiamento, si può sbagliare anche partita, però credo che sia sempre un giocatore determinante, che anche nel momento che magari non è nella massima condizione prova a fare qualcosa di importante, come l'ha fatto anche ieri sera. Magari in 20 minuti poteva risolvere la partita, è stato veramente determinante. Poi dopo, alla fine del risultato, non è venuto il gol, però io Tevez anche da 5,5 lo vorrei sempre avere in campo. Fabrizio, un'ultima cosa, questa giornata ha dimostrato, se vogliamo, una volta in più, che mi sembra una Champions League davvero per due, Real Madrid e Bayern di Monaco, mi sembrano due spanne sopra tutte le altre, compreso un Paris Saint-Germain che tu conosci bene, che commenti settimanalmente, che ha fatto una fatica pazzesca a vincere, anche con un po' di culo sul campo dell'Apoel. No, con un po', con tanto culo, non meritava assolutamente di vincere. La partita è stata a senso unico. Il Paris Saint-Germain era un periodo di grosse difficoltà, sia di gioco che di condizione fisica. I giocatori, soprattutto lì davanti, fa fatica Edison Cavani a trovare continuità con il gol, anche se ieri sera ha fatto un grandissimo gol, ma non è quel giocatore che conoscevamo noi a Napoli, e non so per quale motivo, ma ha veramente una grossa difficoltà a trovare condizione, a trovare continuità. Sicuramente mancano giocatori importanti, uno su tutti Ibrahimovic, c'è una squadra che lo scorso anno, secondo me, poteva arrivare fino in fondo, perché ha perso i quarti, credo, se non vado errato, con il Chelsea, perdendo una partita veramente dove aveva dominato l'andata e il ritorno con degli errori tattici incredibili, perché ha tolto Lucas e Lavezzi, due giocatori che davano profondità, abbassando il baricentro della propria squadra e quindi andando incontro a quelle mischie che poi hanno portato il gol del pareggio e l'eliminazione del Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain, io credo che se fosse al completo, sia una squadra molto pericolosa, perché è una squadra comunque di qualità, giocatori esperti che a livello internazionale hanno una grossa esperienza. È logico, il Bayern e il Real Madrid hanno qualcosa in più, però nonostante il Real Madrid sia una corazzata che in questo momento è veramente difficile affrontarla, io credo che poi alla lunga, quando poi magari, spero per Carlo Ancelotti, che la condizione le possa sempre tenere e possa avere questa facilità nel mantenere il possesso palla, perché quando poi andrà a affrontare squadre di alto livello, quando poi ci sono le ripartenze, potrebbe avere delle grosse difficoltà lì in mezzo al campo, perché avendo perso dei giocatori che potevano fare la differenza, soprattutto nelle ripartenze, le accelerazioni come Di Maria, io l'ho commentato un paio di volte, questa il Real Madrid credo che abbia perso un po' di vivacità, un po' di paesaggio, anche se ieri sera sicuramente ha dimostrato e sta dimostrando in quest'ultimo periodo di aver trovato la quadratura del cerchio Ancelotti, ma si sa, Ancelotti è un fuoriclasse e credo che anche con queste difficoltà riesca a trovare la quadratura della propria squadra. Come ha detto Filippo Maria Ricci ieri, non c'era Bale, per fortuna di Carletto. Non c'era Bale, che ormai sei diventato, e quindi ieri è stato tutto più semplice. Non torna più, ha deciso che fa l'attaccante e il centravanti. Grazie Fabri. Grazie Fabrizio. A voi, un abbraccio a tutti voi. Ciao, stai lì, ci sei? Sì. Eccoci, subito dopo la borsa cominciamo a parlare un po', con un po' di... Ma ti interessa sapere quanto fattura l'Olympiacos? No, perché ci hanno frantumato i cosiddetti, che il Bayern... 61 milioni, un quarto di quanto fattura la Juventus. No, così facciamo la Champions League dei fatturati. Facciamo giocare gli estratti conto. Facciamo giocare gli estratti conti, no, ma ci hanno detto che il Bayern Monaco era inarrivabile per la Roma per questioni facciamo di fatturato. Facciamo la Champions degli estratti conto. Ecco, la differenza tra il Bayern e la Roma è praticamente speculare alla differenza che c'è tra la Juventus e l'Olympiacos. Perché è finita al contrario? Al signor Barisoni questa. Dunque, borsa, poi torniamo. Ha colpito la sicurezza con la quale ha detto vinceremo lo scudetto. Se la sente di dire batteremo il Bayern? Ah, una partita di calcio può succedere di tutto. È anche la cosa bella nel calcio. Non è perché c'è un club che è il più potente del mondo economicamente, che ha dei grandi giocatori e che vince quasi sempre, che la partita è già vinta per loro. Sarà difficile per noi, ma faremo di tutto per rendere questa partita anche difficile per loro. Tutti convocati. più pericoloso è il Chori Dominguez, è detto il Chori che vuol dire salsiccia, salsicciotto, qualcuno dice per le sue insomma misure particolari dal punto di vista sessuale, qualcuno dice che è una leggenda, ma insomma non abbiamo riscontri diretti, non conoscendo né fidanzata né moglie né compagni di doccia del Chori Dominguez. Allora Pierluigi parli, io voglio sapere, che se quei geni che vi preparano le telecronache. Eccezionale! Chi è che ce le prepara? Ce le prepariamo noi. E allora sai tutto tu del Chori. Allora sai tutto, allora, dimmi, allora a questo punto dimmi tutto del Chori. No, no, io non ho, non so nulla di del Chori perché non ho preparato l'Olympiacos Juve, però insomma è stato un momento eccezionale. Ecco. Dimmi qualcosa del toro, eccezionale. Dimmi qualcosa. Giravano leggende anche su tanti altri giocatori, a me viene in mente Usman Dabo. Di cui si raccontavano meraviglie. Dimmi qualcosa sulla partita, di qualcosa di piccante sulla partita che andrai a commentare questa sera. Stasera è bella sì? Perché, perché abbiamo, sono belle tutte e quattro stasera, sì. È la possibilità concreta per tutte e quattro di chiudere il discorso soprattutto. Sì, ma lui vuole sapere di Conan, io voglio sapere 15, qualcosa di se di, si di, chiama di, Conan di, immagino Conan. Il barbaro per qualche ragione. Allora, siamo, anche la schiattona è lì che osserva alla, da dietro il vetro. Siamo. Ci sta tutto, anche il mucchio selvaggio? Mucchio selvaggio, senti, no, io voglio parlare vuoi parlare tecnicamente di Torino Helsinki? Frega niente. Cerchiamo gli ascoltatori, ascoltatori. Dai. Sei veramente, guarda. Ma ti devo parlare di queste cose, sì, dai. Sì, io voglio sapere qualche curiosità che tu dirai in telecronaca questa sera. Ma no, non posso svelare tutto. Vabbè, allora non dice niente. Su Italia 1, no, ma tanto guardiamo lo stesso, però cioè, volevo saperne una così, una curiosità. Ma che è un'interrogazione? Ascoltatori, prego, ascoltatori, prego. Vabbè. Sei sicuro, eh? Voglio ascoltatori. Vabbè. Sto sicuro, vai. 800 24 00 24, numero verde. Carmine, faccia il verso del gufo. Salve, non lo so fare, guarda. Faccio io. Guardi, allora io sono un tifoso romanista acceso, anti-juventino fino al midollo osseo. E volevo dire, volevo fare una domanda a Pardo, no? Perché ieri sera vedevo la partita e ho goduto per la sconfitta della Juventus, come se avessi fatto l'amore con la Bellucci. Bellissima, così mi piace. Già in partenza. Allora, le volevo fare una domanda. Paradossalmente, quest'estate, quando ci sono stati i sorteggi per i gironi Champions, sì, la Juventus è capitata in un girone facilissimo perché tutte le tre squadre sono inferiori alla Juve, anche l'Atletico Madrid, che non è un granché. L'anno scorso era uno squadrone, ma quest'anno è perso parecchio. La Roma, invece, è capitata in un girone dove c'è il CSKA di Mosca che è inferiore alla Roma, ma Bayern Monaco e Manchester City sono superiori. Paradossalmente la Roma a 4 punti, avendo fatto due bellissime partite con CSKA Mosca e Manchester City dove meritava di vincere, perché ha fatto 7 palle. Beh, anche col Bayern ha fatto una bella partita. Ma amico, col Bayern le spiego, è stata talmente paradossale che io, allora le dico questo, da romanista io ho giocato quella partita e me la sono giocata due volte, 2-1 a favore del Bayern e 3-1 a favore del Bayern, perché ero convintissimo che la Roma perdeva. Certo, perso in maniera molto ma molto brutta, però paradossalmente la Roma ha 4 punti, la Juventus ne ha 3 e paradossalmente la Roma passerà il girone da seconda, secondo me lo passerà da seconda, la Juventus andrà in Europa League. Noi registriamo tutto, registriamo tutto. E questa è la più bella soddisfazione, volevo sapere cosa. Io volevo sapere se ci dai i risultati di domenica che gli andiamo a giocare noi. Sono d'accordo sull'idea che la Roma stia facendo meglio dopo 3 giornate della Juve in Champions League, perché è chiaro che il girone della Roma è più complicato. Ora è più complicato anche perché la Roma è in quarta fascia mentre la Juve è in seconda, quindi questo è in qualche modo dovuto alle ultime stagioni delle due squadre. Il fatto di avere un girone più facile, la Juve in questi anni se l'è guadagnato con le prestazioni europee, quindi non è stata una botta di fortuna e basta. In assoluto è vero, cioè nelle prime 3 partite sicuramente la Roma ha fatto bene, la Roma comunque c'era al momento del sorteggio chi pensava che non potesse proprio competere nel girone, addirittura che convenisse puntare solo sul campionato. Dopo tre giornate è seconda, a più due dal Manchester City, questo è un fatto che rimane. La sconfitta dell'altro giorno, che è una sconfitta ovviamente pesantissima e umiliante, però poi alla fine vale 0 punti, esattamente come se avesse perso 1-0. Tanto non arriverà a pari merito col Bayern Monaco, non ci sarà il problema dello scontro diretto. Quindi la Roma secondo me ha buone possibilità, secondo me c'era anche la Juve, nel senso che comunque alla fine sono 3 punti, ci sono due partite in casa, la trasferta che rimane dovrebbe essere la più semplice fra tutte e tre. Però certo, la Juve esattamente come un anno fa con i due pareggi iniziali con Copenaghen e Galatasaray si è messa in una condizione in cui se le dovesse andare storto qualcosa, come successe l'anno scorso e per me fu anche sfortuna a Istanbul, esce. Questo onestamente è ficcato in un buco per una squadra della qualità della Juve. Si è ficcato in un buco. Io comunque mi dissocio dai gufi, perché segnalo che tra martedì e mercoledì abbiamo perso 0,500 punti gufi, dal Portogallo nel ranking UEFA. Il Portogallo è un finto problema, ma sì, stiamo scherzando, poi se noi raccontiamo. Noi dobbiamo guardare alla Germania. Ma il Portogallo è un finto problema, perché il Portogallo sta per perdere la stagione, quella, quella del trionfo in Europa League, per cui il Portogallo sarà ridimensionato. No, quello che è invece altamente improbabile in tempi brevi è il ritorno alle quattro squadre. Questo ma su questo invece io ho qualche dubbio, Pier. Proprio per lo stesso motivo, la Germania scarterà tanto, noi scarteremo poco per un paio di anni, quindi quegli 11-12 punti che ci separano dai tedeschi in realtà sono molto meno, cioè il ranking funziona così, in salita e in discesa, noi fin qui siamo scesi, prima o poi saliamo. Sì, io ce l'ho davanti, sì, sicuramente 2010-2011 e 2011-2012 ne abbiamo preso 4 punti più o meno, tutti e due gli anni dai tedeschi. Quindi vedi che siamo a 2-3 punti. Mi state profondamente annoiando, ma profondamente. Sì, ma ragione, guarda, profondamente, profondamente. Paolo Brescia. Le tecniche sul ranking sono ridicole. Profondamente, io sono per il gufismo spinto. Paolo Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno e grazie per la convocazione. Grazie a lei. Una piccola riflessione sulla partita della Juve di ieri. Penso, e poi voi mi darete conferma, mi sembra che ieri la Juve abbia giocato come una classica squadra all'Allegri, cioè partenza molto soft, in attesa dell'avversario, si prende il gol, si aspetta quell'oretta prima di tornare a giocare e poi si cerca di andare al pareggio. Avanti così la Juve sicuramente non può andare, deve cambiare qualcosa. Ma il tema secondo me è quello, difatti. Cioè, la domanda è: ma è tutta qui la Juventus di Allegri in Europa? Esatto. Marcarsi la differenza. Voglio fare un'ultima domanda molto precisa a Pierluigi Pardo prima di salutarlo. Allegri ha fatto degli errori nella gestione della partita di ieri? Secondo me sì. Quali? Guarda, secondo me l'errore più grave, ma insomma è chiaro che da qui siamo bravi tutti, è stata una certa lentezza nei cambi e soprattutto nel tornare nel cambiare difesa, che è qualcosa che è successo, se non sbaglio, al minuto 77. E poi è chiaro che ognuno in qualche modo, nel momento nel quale sceglie Tizio piuttosto che Caio, in qualche modo si porta dietro onori o oneri della prestazione del giocatore. E ieri Pirlo ha fatto male. Morata ha fatto bene, questo va detto, va riconosciuto. Morata ha dimostrato di essere un giocatore pronto e da questo punto di vista, siccome le due scelte forti di ieri sono state Pirlo e Morata, diciamo che una gli è andata abbastanza bene e l'altra gli è andata malissimo. Vidal è una storia diversa, è un momento non è il momento migliore da quando è alla Juve, è un giocatore secondo me irrinunciabile. Per me la stagione della Juve passa attraverso queste tre chiavi: il recupero di Pirlo, la possibile esplosione di Morata e riuscire a stabilire una qualità di rendimento con Vidal che fin qui non c'è stata. Magari poi ci sono anche tutti gli aspetti, diciamo, extra calcio, qualche polemica, qualche spiffero. Sono già due casi politici su tre. Su questi tre giocatori, su come andranno questi tre giocatori, si gioca la stagione la Juve. Due casi politici su tre. Poi non sarebbe male nemmeno recuperare Barzagli dietro, perché noi ci eravamo abituati alla Juve che non prende gol. E la Juve continua a prendere gol. Poi sarà colpa del centrocampo, della palla persa. Che continua a piacere più no che sì. Evidentemente è un po' meno blindata. Barzagli è per me più forte difensore della Juve, non me ne vogliono Borucci e Chiellini, cioè è il difensore barometro. È quello che assesta tutto. Poi Bonucci ha dei piedi sicuramente anche superiori, Chiellini ha una fisicità di un certo tipo, può fare anche l'esterno, ma il giocatore secondo me più affidabile, che commette meno errori in una stagione, per me è nettamente Barzagli. Barzagli, sì. Ciao Pier, ciao, ciao, a domani, ciao. Ciao, ciao, un abbraccio. Tutti convocati. Avremmo meritato di non perderla questa partita, perché nell'ultima mezz'ora abbiamo creato tante occasioni e la porta sembrava stregata, però credo che bisogna fare, è un mea culpa, perché abbiamo sicuramente affrontato male il primo tempo e facendo alla fine tutto quello che si era parlato di non fare, di concedere di partenza a una squadra che sicuramente non è che ci investiva più di tanto sul gioco manovrato, ma sulle palle perse da noi poteva crearci qualche problema, e così è stato. Ma questa cos'è? Chiellini dopo Madrid, dopo Atene, dopo Istanbul, qual è? Dopo Copenaghen? Chiellini almeno 11. La cosa preoccupante è che la Juve, detto Buffon un primo tempo normale, ieri sera ha perso la stessa identica partita che ha perso le altre volte, sì, vero, in Coppa, vero, dei Campioni, vero. E questo secondo me è il dato preoccupante. E l'altro dato preoccupante è che di questo piccolo settore di partite, secondo me quello più allarmante è l'unica che ha vinto, cioè la partita con la Roma, nella quale per la prima volta io ho visto andare a Torino qualcuno e giocarsela alla pari e magari anche meglio della Roma, al netto poi delle dichiarazioni di Garcia, della sua certezza che vince lo scudetto, sì, però ho l'impressione che la Juve sia veramente a metà di un guado. Sì, ma il dato allarmante secondo me arriva dall'immediato, perché per la Juventus non passare questo primo turno di Coppa vorrebbe dire un terremoto, un piccolo terremoto interno, come è successo già l'anno scorso, solo che l'anno scorso c'era la solidità quantomeno di Conte, del suo gruppo. Quest'anno vediamo. Matteo Carpi, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Io, guardi, non sarei così pessimista sulle due italiane. Io sono abbastanza sereno che passino entrambi il turno, perché comunque la Juve ha perso due partite anomale, perché comunque anche a Madrid era uno 0-0 scritto. Ma l'ha detto adesso Capuano, possiamo leggerla come una anomalia o come un dato preoccupante, a seconda dei punti di vista. E ieri ha dimostrato la Juve che giocando 20 minuti ha messo sotto l'Olympiakos. Ma questo è un aggravante però, Che comunque l'Olympiakos è stato sottovalutato a inizio, ai sorteggi, che è sempre stata una squadra di livello che raggiunge sempre ottavi e quarti da vari anni, a molti nazionali della Grecia che al mondiale hanno fatto meglio di noi, quindi ci sta di andare a perdere anche lì. E io sono sereno che passi, ho queste convinzioni. Tutto sì, io dico solo una cosa e ve lo chiedo a tutti, poi magari la risposta la diamo dopo il GR delle 15. Mi dovete dire, nelle ultime 9 partite di Coppa la Juve quante ne ha vinte? Visto che tutti partiamo dal presupposto di dire adesso ha 2 partite in casa, ha la trasferta in Svezia, deve vincere almeno 2 volte e pareggiare 1 e con i punti ci siamo. Allora io vi dico, nelle ultime 9 partite, voi adesso andate lì, spulciate e mi dite quante ne ha vinte la Juventus. Perché poi bisogna anche fare i conti con la realtà, e i numeri, anche se annoiano il buon Carlo, qualcosa dicono, qualcosa dicono. Anche la legge dei grandi numeri, visto che ne ha vinte pochino o pochissime. Renato Torino, buongiorno. Buongiorno a lei, io avevo telefonato ieri in un momento di delusione, di eccitazione, di cosa? Ma forse è la colpa mia. Allora niente, ieri intanto avevo telefonato per dare ragione a quel signor Paolo Centi. Paolo Cento. Cento, scusa. Che è romanista e aveva detto le cose, i gufi ci sono. Io sono milanista, premetto, e la Juventus mi è completamente indifferente. Non la odio come tanti, abito Torino, ma quello che volevo dire, oltre questo, che poi sono stato disgustato di quel ascoltatore che si è lamentato che Garcia non era andato a dare la mano, eccetera, in un momento del genere, però non si ricorda che quando Totti, anche se poi ha detto quello che non doveva dire, poteva evitarlo, è uscito con dei fischi incredibili. A parte questo, il tifo è purtroppo bisogna perdere. La seconda cosa che volevo dire, io guardando la Domenica Sportiva, e devo dire che voi giornalisti, che non ce l'ho che voi giornalisti, anzi, forse siete più competenti, o lo siete, o lo fanno o lo sono, certi allenatori. È Mondonico, la Domenica Sportiva, ha detto: non è vero che le squadre italiane sono inferiori, oppure che il campionato italiano è inferiore a quello europeo. Mi sembra che, detto da un allenatore con tutto rispetto, per l'amor di Dio, quale campionato europeo? Cioè, qual è il campionato europeo di riferimento? È quello greco? Un attimo. Renato, non mi tocchi Mondonico, perché io sono un suo estimatore totale, quindi sono di parte e quindi non potrei parlarne male nemmeno se fossi costretto. No, ma al di là di questo, che è ininfluente. Allora, le squadre italiane inferiori a quelle straniere quali? Allora, io in questa Champions League, poi ne parleremo anche con Paolo Condò, che è credo il massimo esperto delle geografie calcistiche europee. Allora, in Europa in questo momento ci sono due squadre inarrivabili per tutti, e sono quelle che conosciamo. Sì, magari aggiungi il Barcellona, però diciamo no, sono poche. C'è un'oligarchia, è storia degli ultimi anni, no? Un'oligarchia di squadre, sono 4, 5, 6 squadre che sono praticamente inattaccabili da tutte le altre. Di questa oligarchia le squadre italiane non fanno più parte da 3 anni, cioè da quando non c'è più l'Inter di Mourinho, per una questione prettamente economica. Ho l'impressione che lo stagno stia diventando ancora più piccolo, perché in questa edizione poi magari ti esce il Borussia Dortmund di turno, l'Atletico Madrid di turno, però ho l'impressione davvero che ci siano due forze egemoni e tutte le altre sono lì sotto a grosso modo a boccheggiare. Non c'è lo United, il Liverpool non conta niente, il Chelsea non mi sembra da corsa in questa edizione, anche se è molto forte, il Barcellona mi sembra qualcosa, adesso aspettiamo il classico, ma non mi sembra più quello che era fino a qualche stagione fa. Dunque c'è questo pugno di squadre con le quali le nostre non possono competere. Poi non ne farei un discorso di livello di campionati, il nostro è un campionato totalmente sui generis, non magari spettacolare, ma certamente molto complicato da diversi punti di vista. Nicola da Bologna, non ci abbandoni, stia lì, perché adesso ci fermiamo per il GR, ma subito dopo torniamo per un'altra ora insieme. 800 24 00 24, numero verde. Credo che la storia della Juve è un po' così, no? Che nel campionato sta bene, ma nella Champions fai fatica. Ma noi dobbiamo cambiare questo. Il nostro obiettivo è vincere la quarta stella. Quello che facciamo in Champions contro queste grandi squadre è il saper soffrire. Non c'è niente di male dire che le squadre sono più forti. Il tempo potrà dire se Galatasaray diventerà una squadra anche da lottare per vincere la Champions League. La realtà è che mancano punti e dobbiamo migliorare questa cazzima, vogliamo migliorare un po' tutto. Finisce qui il primo tempo. Tutti convocati. Siete sempre tutti convocati ogni giorno, 800 24 00 24. Io aspetto le risposte. Quante partite sabato, ha vinto? Ma la domenica dalle 5 alle 7. Dalle 5 alle 7, sì. Se no vi rispondo domenica, se non me lo dite. Quante partite ha vinto la Juve nelle ultime 9 di Coppa? Perché Nicola da Bologna ce lo dirà. Voi date tutto per scontato. Nicola? Salve, grazie per avermi chiamato. Grazie a lei, grazie dell'attesa anche. Pure. Prego, il premesso che non sono né tifoso della Juventus né della Roma, ma sono tifoso delle squadre italiane. Io ritengo che noi abbiamo degli allenatori che hanno il cervello in pappa, proprio perché no? Si vedeva dopo pochi minuti che Hasek non era idoneo in quella posizione, come Pirlo non stava bene in campo, perché non un po' di coraggio. Mi sembra che proprio abbiamo degli allenatori che sono sotto la media, delle scelte tattiche dovevano essere fatte e queste non hanno avuto il coraggio. In Europa abbiamo allenatori quasi da primavera, sì, che non mi hanno sembra coraggio. Che la Roma avesse il problema dell'infortunio di Maicon, cioè la scelta di Colli era una scelta obbligata, altrimenti Garcia aveva in mente una formazione diversa. Nella Roma puoi togliere Ashley Cole, puoi togliere Totti, puoi togliere Pjanic, puoi togliere De Santis, non sbagli un colpo. Ma di fatto è talmente brutta la sconfitta della Roma da essere quasi finta, da un certo punto di vista quasi eccessiva, passa via. Io ho usato una parola caricaturale, la sconfitta della Roma. Ecco Paolo Condò, prima annunciato e presentato come il massimo esperto ogni epoca accade sui terreni europei. Non esageriamo, sono ancora un ragazzino. Buongiorno a tutti. Buongiorno, sì, però per iniziare dovrà darci questa risposta. Cioè, quante partite ha vinto la Juventus nelle ultime 9 di Coppa? Due, cioè, che è il numero esatto che dovrà vincere nelle prossime 3. Questo per dire che poi noi adesso la facciamo facile esattamente come un anno fa. Però attenzione. E poi si è visto come è finita l'anno. Esatto, si gioca col fuoco. Avete notato che nel girone della Juventus ci sono solo vittorie casalinghe? Sì, notato. Solo questa, questa è una cosa che conta, perché evidentemente si qualifica chi riesce a fare punti in trasferta, questa tendenza, certo, a fare punti in questo senso. Non è bello il fatto che la Juve abbia due partite in casa nelle quali deve vincere assolutamente, è soltanto un'occasione di fare punti in trasferta. Allora partiamo dal presupposto che la Juve deve, e penso che sarà in grado, vincere con due gol di scarto contro l'Olympiacos. Già ieri ha avuto talmente tante occasioni da gol che non si ripeterà un sortileggio come quello degli ultimi 20 minuti della partita di Atene. Che poi se certe ho detto prima, si è scavato un buco, se certi buchi te li vai a cercare giocando un pessimo primo tempo, poi puoi anche avere sortileggio contro, Paolo. E poi anche se tu avessi io ho scritto Cristiano Ronaldo stamattina, ho scritto con Cristiano Ronaldo finiva 3-1 almeno per la Juve, con lo stesso gioco, con le stesse occasioni, ma anche con uno più scarso di Cristiano Ronaldo. Veniva fuori, cioè, non con la riserva di Cristiano Ronaldo che ce l'ha adesso la Juve. Le punte hanno sbagliato troppo ieri. Sì, tu dici Morata, mi è piaciuto il modo in cui si è liberato Morata, è promettente, sì. Però poi al momento di tirare ha sempre centrato il portiere, la verità è questa. Sì, ma prima abbiamo individuato tre problemi per la Juventus, uno è Pirlo, mi sembra evidente, e c'è un problema, due problemi politici, uno è Pirlo e l'altro è Vidal, parliamoci chiaro, per Allegri. Allora, Vidal, ho già espresso anche qui più volte la mia convinzione, loro hanno tentato di venderlo quest'estate, hanno tentato in tutti i modi di venderlo perché lo ritenevano un giocatore già arrivato al suo massimo, non più migliorabile, e fin qui avevano ragione, perché questo Vidal non è certo in crescita rispetto all'anno scorso, e perché pensavano, con i soldi presi da Vidal, loro puntavano a 40 milioni, potevano rifare la squadra, potevano aggiungere altri giocatori e migliorare la squadra. Questo, non sono riusciti a venderlo. Quando nel corso dell'estate tu leggi una decina di volte Vidal è incedibile, non accettiamo nessuna proposta, vuol dire che stanno sollecitando delle proposte. È chiaro. Funziona così. Poi per quanto riguarda Pirlo, credo che ci sia un grosso problema, che Allegri, siccome è successo quello che è successo al Milan, adesso ha delle cautele enormi. Questo è un condizionato. Mica una bella cosa, Non è una bella cosa, però Allegri si è sentito dare dell'imbecille per 3 anni. Perché i 3 anni splendidi che ha fatto Pirlo la Juventus sono valsi ad Allegri, che secondo me, oltretutto a quanto ne so, non era l'unico colpevole della cessione di Pirlo, gli sono valsi questa patente. Però adesso è chiaro che tu Pirlo lo devi aspettare comunque un po', perché è stato assente fino adesso, è rientrato praticamente da Juventus-Roma, e quindi un mese di riacclimatamento alle partite glielo devi concedere. Però se il rendimento non dovesse migliorare, lo vediamo tutti. Sì. Cioè, a quel punto non possiamo più dire niente. Magari Allegri se mette Marchisio. No, bravo, magari non lo aspetti in partite dentro fuori come sono queste. No, certamente no. Però col Sassuolo lo aspetti. E un'altra cosa, Morata è in questo momento gioca meglio di Llorente, magari Allegri ci ha messo anche un po' troppo a capirlo. L'abbiamo intravisto ieri sera. Llorente fa giocare meglio te. Bravo, ed è lì che volevo arrivare. Ed è lì che le volevo arrivare. Vedi che ci capiamo. Siamo in due a non capire niente di calcio. Esattamente. Per quanto mi riguarda, come sostiene il 90% dei miei ascoltatori, che ha ragione. Peraltro. Certo, assolutamente. Anche questa. Allora, se ieri Morata avesse fatto 3 gol, ma ne bastava uno, allora ti dicevo tutta la vita avanti con Morata. Avanti con Morata, questo è più forte, più attaccante, più bomber, goleador. E la Juve ne ha un estremo bisogno, ha bisogno di uno che faccia tanti gol lì davanti. E nessuno può essere condannato dopo la prima partita, e quindi deve avere altre opportunità, magari in campionato adesso. Sì. Magari fallo giocare a Palermo e vediamo se è stato un caso il fatto che dopo essersi magnificamente liberato ha centrato il portiere, oppure se ha questa tendenza calamita. Sì, lui i numeri ce li aveva in Spagna per rapporto minuti giocati, gol fatti, era comunque un rapporto da attaccante vero. Io poi aggiungerei che non riesco a capire di Allegri, che mi sembra, ripeto, in mezzo al guado, perché lui parta sempre comunque con la Juve di Conte, più o meno, seppure a giri ridotti. Sì. E poi quando ha bisogno di cambiare, vediamo tentativi, ieri 10 minuti di 4-3-3, 5 minuti di 4-2-3-1, 4-3-1-2. 3 minuti di casino. Io totale, ho, in cui nessuno come l'impressione che lui non sia del tutto convinto, ad esempio, però evidentemente lui parta dalla Juve di Conte, perché è quella che conosce come meccanismi e tutto. Può anche essere intelligente, mi chiedo quanto durerà questo periodo di rodaggio. Cioè, noi la Juve di Allegri quando la vediamo, Paolo? Abbiamo detto fin dall'inizio della stagione che Allegri, persona intelligente, anzi astuta, che è una cosa ancora diversa da intelligente, per entrare dentro un ambiente che l'ha colto un po' freddamente, avrebbe replicato le caratteristiche della Juventus di Conte, per poi piano piano staccarsene e creare la sua. Il punto è metterci d'accordo su questo piano piano. Se questo piano piano fosse avvenuto con la partenza che c'è stata in campionato, perché la partenza hanno perso soltanto 2 punti col Sassuolo fino a questo momento, ma con una situazione di Champions League molto più rasserenante rispetto a questi agghiaggianti 3 punti dopo una partita, allora ti avrei detto: bene, adesso è il momento di doverle fare in emergenza. È assai più complicato. Un giocatore come Pereira, però, per esempio, non può star fuori, è l'uomo più in forma. Sì. Stesso discorso vale anche per Marchisio, esempio, stesso per discorso esempio, vale per Marchisio, sì. Asamoa con Evra che chiaramente sta andando meno. Sono di questa opinione, però bisogna ricordare che c'era Asamoa ieri in campo. Sì, questo sicuro. Vorrei che rispondesse Paolo Gondò a David da Bergamo, che ce l'ha con me. David, buongiorno. Buongiorno. Ce l'ha con me perché? No, perché è da 7 anni che sento la stessa storia, che la Juve o che altre squadre italiane sono più forti che quelle straniere, che nelle straniere ci sono solo 2 o 3 squadre, ma alla fine se la Juve ha la possibilità di non passare il turno, perché c'è questa possibilità che non passa il turno, da 2 anni di fila, mi sembra che non è che ha giocato contro il Barcellona o contro il Bayern, solo ha giocato contro il Galatasaray l'anno scorso, quest'anno rischia di uscire contro l'Olympiacos, quindi sì. Bisogna vedere che la Serie A ormai è un cimitero di elefanti, mi sembra. Sì, ma mi sembra anche che sia un problema della Juve, perché negli ultimi 7 anni, ad esempio, il Napoli in Champions ha mandato fuori il Manchester City. Mi sembra sbagliato trarne valutazioni di stampo assoluto. No, è complicato, devo dire, sì, le cifre e la storia danno ragione a Davide. Però è molto complicato dare, non voglio svicolare la domanda, però pensa soltanto alla Roma. Ti va a fare quel popò di pareggio 1-1 in casa di una squadra fortissima come il Manchester City, ricca di fenomeni ultrapagati e bravi anche, perché Agüero non è soltanto ultrapagato, è anche molto bravo. E Yaya Touré, insomma, Company, e non sto qui a farti la lista delle aspetti. Ecco, dopodiché fai quel risultato in campo dei campioni, quelli che hanno vinto la Premier l'anno scorso. Ecco, fai quel risultato e poi becchi 7 pere dal Bayern a domicilio. Sì. Allora, 7 pere dal Bayern li poteva beccare anni fa la squadra maltese. Invece adesso la squadra maltese o la squadra di Nicosia fa soffrire come dannati i ricchi del Paris Saint-Germain. Trovami una coerenza tra pareggiare in casa dei campioni d'Inghilterra e beccare 7 pere in casa dai campioni di Germania. Paolo, una coerenza non c'è possibile. Però Roma-Bayern Monaco è anche una partita particolare, cioè è nata così, non ci sono 7 gol nemmeno tra il Brasile e la Germania per tornare a un 7-1 che ha fatto discutere. Non c'è un gol tra Italia e Malta, non ci sono magari 2 gol tra Islanda e Olanda. Invece è più preoccupante la coerenza dei risultati della Juventus della in queste Juve, 3 stagioni. Concordo assolutamente. Perché quella è una linea di tendenza, non è una notte che è venuta così e che si rigiocasse altre 9 volte. Probabilmente uscirebbe in maniera diversa, posto che probabilmente la rivincerebbe 9 volte il Bayern, problema. Ma difatti io non, detto che Allegri non ha ancora fatto niente di che, non vedo vedo la necessità di processare Allegri in questo momento, perché non, in Europa sta facendo né più né meno di quello che faceva Conte. Sì, hai ragione. Esattamente la stessa cosa. E comunque per la Juventus, con tutte le critiche che stiamo muovendo e con la tendenza a farne dei discorsi assoluti, è chiaro che se dovesse uscire al primo girone, esattamente come l'anno scorso, parleremmo di eurofallimento. L'anno scorso la Juve fallì, e questa è l'unica parola possibile, fallirebbe anche quest'anno, perché è una squadra che in valore assoluto può valere i quarti di finale. Ecco, forse non è vero. No? Forse non è vero. No, non ne sono certo. No, nemmeno io. Però in teoria è così. Forse non è vero, perché comunque bisogna avere rispetto dei risultati. Se tu un anno esci con i turchi e l'anno dopo, speriamo non capiti, esci con i greci, allora non vali i quarti di finale. Non li vali, perché un incidente può capitare. Ma due consecutivi di questa portata contro rivali di quella portata, guarda il Galatasaray, che lo stanno prendendo a schiaffoni da tutte le parti. Il nostro amico Prandelli. Mica bene, sì. Mica bene. Vuol dire, la squadra è più o meno la stessa, eh. Sì, non hanno più Drogba, ma non è che Drogba facesse cose incredibili. Spaccasse le reti tutte le partite. Quindi è evidente che se la Juventus dovesse uscire per la seconda volta al girone, tutti i nostri discorsi sul valore, sul fatto del suo posto, per tradizione il suo posto è ai quarti e anche più lontano, ma per rosa effettiva io comincio a temere che li sopravvalutiamo. Senti, io vorrei farti ancora una domanda di valore assoluto, che è questa, che è un ritornello che ripeto da qualche giorno. Ho la sensazione che lo stagno della Champions League stia diventando sempre più stretto. Io adesso vedo davvero solo due corazzate, molto più forti di tutte le altre, Real e Bayern Monaco. Le inglesi non mi sembrano competitive, vabbè, Liverpool lasciamo stare, ma nemmeno il City, il Chelsea. Io il Chelsea lo considero come Real Madrid e Bayern. Sullo stesso livello? Sì, Chelsea assolutamente sì. Il Barcellona? Il Barcellona, adesso vediamo l'alchimia come funziona, lo sappiamo, cominciamo a vederlo sabato, assodato che non possono giocare con tre palloni come vorrebbero, però non possono giocare con tre palloni, l'alchimia che si creerà tra Messi e Neymar, che dopo un anno passato a non passarsi il pallone, adesso stanno funzionando molto bene insieme, Messi e Neymar, se Suarez entra e si sposa con i primi due bene, diventa qualcosa di mai visto un attacco Messi-Neymar Suarez, però io credo che non sarà facilissimo invece l'inserimento di Suarez. No, giudizio ancora per il momento ancora sospeso, il giudizio sul Barcellona, e le prime tre sono Chelsea, Bayern, Real Madrid. Grazie Paolo, buon lavoro. Buona giornata a tutti. Piacere. Grazie Paolo Condò. Oh, intanto te ne racconto una di pochi minuti fa. Massimo Moratti si è dimesso da presidente onorario, dal CDA, hanno fatto un passo indietro anche i suoi uomini. E insomma, l'avevamo detto, tre giorni fa c'era stato un regolamento di conti all'assemblea dei soci, c'erano state delle accuse precise da parte degli uomini di Toir alla gestione negli ultimi anni di Moratti, quei conti disastrosi, 400 milioni di euro persi nei quattro bilanci post triplete, e secondo me le parole di ieri di Mazzarri, poi abbiamo tempo per parlarne? No, le abbiamo, queste qua. Ci sarà tempo e modo per rispondere a tutti, ora io devo pensare alla squadra. La società sa tutto, noi abbiamo tutto ben chiaro, tanto è vero che con quei pochi giocatori che ho potuto lavorare durante la sosta e ho avuto a disposizione si è visto proprio un cambio di tendenza totale, uno di questi è Hernanes, Palacio, però io l'ho detto, l'ho sfiorato, perché comunque in questo momento, vedete perché cerco di venire meno possibile a parlare con voi, perché in questo momento ogni mia frase viene strumentalizzata, viene usata al negativo. Moratti, Mazzarri ieri. Mazzarri aveva detto io non ho tempo di rispondere a Moratti, provando a fare la sintesi, e il tempo non ci sarà, perché Moratti di fatto esce definitivamente, almeno dal punto di vista delle cariche della società, resta col suo 30%. Però l'abbiamo detto un anno fa, è difficile che ci sia una convivenza al vertice di un club calcistico. Ci sono pochissimi esempi e alla fine tutti hanno portato a una separazione, a un divorzio. Certo. Questo credo sia l'annuncio del divorzio definitivo di Moratti dall'Inter. E forse era, è anche lecito, perché in troppi, soprattutto di questi tempi, stanno invocando un ritorno di Moratti. Meglio la chiarezza, meglio una sana chiarezza, quale oggi è arrivata. Poro Balotelli. Sto leggendo un sito, lo stanno facendo a pezzi, perché ieri ha... Oggi il Daily Mail aveva in prima pagina si è Real la maglia Idiot con Pepe. Ma perché? Si è scambiato la maglia con Pepe nel tunnel dell'intervallo, cioè, beh, lui il senso dell'opportunità non ce l'ha, con Liverpool sotto 3-0, ennesima prestazione. Ma non mi sembra un gesto offensivo. No, non è un gesto offensivo, però evidentemente può essere letto, interpretato come un disinteresse di quello che gli sta accadendo intorno, che poi è un po' simile a quello che gli ha sempre detto Prandelli, cioè tu vivi in un mondo tuo, virtuale, chiuso, autoreferenziale, tu dimmi se all'intervallo di una partita che stai perdendo in casa 3-0, subendo una dura lezione, e giochi ad Anfield, sei Liverpool, tu ti puoi permettere di chiedere a Pepe, a un avversario, di scambiare la maglia così, magari davanti Pepe, a tutti. Abbiamo la certezza che abbia chiesto Balotelli. Le immagini dicono che l'ha chiesto Balotelli. Chi sta parlando? Noi, Nicola, Viareggio. Ciao, buongiorno. Ciao. Grazie per l'invito. La prima cosa che voglio dire è che sono milanista, perciò vedo un po' dal terrazzo tutte queste partite Champions League con un po' di tristezza. Però senza offese, senza polemica con nessuno, io sto vedendo molto da persone anche che veramente si intendono di calcio, di dare giudizi senza pensare a quello che è stato detto nel passato. Io sono un estimatore di Ancelotti, come è il mio idolo come allenatore. Sì. Io vorrei ricordare a tutti i giornalisti, a tutti quelli che fanno lo sport, di leggere quello che era stato scritto all'inizio della stagione del Real Madrid, quando è andato via De Maria. Sì. E il Real Madrid non stava ingranando e molti giornalisti dicevano Ancelotti è sull'orlo di essere licenziato. Adesso Ancelotti e Real Madrid sono la squadra carro armato come Nicola, Bayern. Lei sa, e lo dice la cronaca, non l'abbiamo certo detto noi, ma perché non l'abbiamo fatto. Lei sa come la cronaca dice che Ancelotti è stato diverse volte sul punto di essere licenziato ed è arrivato a forse 30 secondi dal licenziamento, no Giovanni? Quella notte di Champions League. Era di fatto licenziato, ma l'ha raccontato gli inviati alla finale. Quindi, che vedevano che cosa succedeva nel palco noi. Presidenziale. Ma certo. E devo dirti che tra l'altro, leggendo la stampa di Madrid, anche l'inizio di questa stagione non è stato apprezzato, cioè per niente. Il Real Madrid va a un classico sabato contro il Barcellona che è già uno spartiacque del campionato, perché è dietro credo di 4 punti e sì, o vince o rischia di veder scappar via il Barcellona. Tutti convocati. Il nostro obiettivo è vincere la quarta stella e noi lotteremo tutte le partite per vincere la quarta stella. Quello che facciamo in Champions contro queste grandi squadre è il saper soffrire. Noi abbiamo affrontato una squadra che c'era un campione del mondo, non c'è niente di male dire che le squadre sono più forti. Con questo pubblico, con questa determinazione, il tempo potrà dire se Galatasaray diventerà una squadra anche da lottare per vincere la Champions League. Poi vediamo se ci arriverà con Prandelli oppure no. Sì, ma anche no. Più no che sì. Posso dirti una cosa su Balotelli? No, su Balotelli. Ieri a Sky Sports UK c'era un dibattito, il titolo era Balotelli è un giocatore finito per il Liverpool, e c'era Carragher, ex del Liverpool, che ha detto ci sarà un motivo se al supermercato ti danno alcune cose con lo sconto. Balotelli è arrivato con lo sconto perché sì, non serviva e gli altri non lo volevano. Ma ormai ognuno può dire ogni cattiveria possibile. No, ma tu lo difendi ma lo difendo, per carità, e andrai avanti a difenderlo anche. Lo difendo se gioca bene, se torna ad essere un giocatore, se riuscirà, ce la farà ad essere un giocatore. Adesso crocifiggerlo per questa storia qui dello scambio e la maglietta, a me sembra davvero tanta roba. Leonardo da Trapani, resti lì un attimo, perché ho in linea la voce più amata da tutti i tifosi della Roma, Carlo Zampa. Ciao Carlo. Buon pomeriggio, ciao. Io voglio chiedere a te una cosa, perché non mi torno i conti, non ci dormo di notte. Ma perché tutti se la prendono, si incazzano come le Iene, ovviamente, non i romanisti, perché Garcia ha detto siamo forti, vinceremo lo scudetto. Ma perché? Chi è che se la prende? Come? Sinceramente, chi è che se la prende con lui? Tutti quelli che romanisti non sono, gli juventini su tutti. Ah, che romanisti non sono? Certo. Io pensavo che no, ma no, ma no. Romanisti. No, ma non lo so, quello è un problema loro. Chi se la prende è un problema loro, insomma. Io penso che lui abbia detto una cosa che è assolutamente fattibile e possibile quest'anno. La Roma lo ha dimostrato almeno nel campionato italiano. Poi il problema è che la Roma e la Juventus e le altre squadre incontrano ogni volta che varcano i confini e vanno in Europa, quello è un altro tipo di discorso. Ma insomma, in Italia la Roma ha dimostrato anche nella partita contro la Juventus di essere all'altezza, insomma, di poter arrivare fino in fondo e poter vincere il campionato. La liquidiamo come presunzione? 1-7? Da parte di quella, sì, sicuramente è stato un po' di presunzione. Sicuramente un pizzico di presunzione c'è stata. E purtroppo è arrivato nel momento in cui la Roma era al massimo della sua autostima, perché veniva dalle partite di Champions contro il CSKA e quella bella fatta a Manchester, e poi anche la bella prova che la Roma ha fatto a Torino contro la Juventus. Insomma, senza Rocchi sarebbe stato un altro tipo di partita, sarebbe stato anche un altro tipo di risultato. Dici? Però dici. Ha dimostrato ampiamente, insomma, di essere comunque all'altezza della situazione. Ha a disposizione una rosa più ampia rispetto allo scorso anno. Magari si pensava di poter arginare lo squadrone tedesco, così non è stato. Dopo il secondo gol la Roma è completamente naufragata, lì bisognava avere la freddezza di fermarsi, quantomeno cercare un po' di arginare, andare alla fine del primo tempo sotto i due gol e poi cercare in qualche modo di riprendersi. Ecco, tra l'altro Rocchi va in Qatar, non arbitra neanche questa domenica in Serie A, però la cosa un po' particolare... Ci dispiace per loro. Sì, però la cosa un po' particolare è che di tutti quelli che erano presenti quella sera lì a Torino, Rocchi è l'unico che paga, perché tutti gli altri o hanno già arbitrato o fatto gli assistenti o i giudici di porta. L'unico che è rimasto fuori è Rocchi. E poi, d'accordo su questo, perché è giusto che debbano anche loro prendersi le loro responsabilità. E poi io non so come prendono a Roma il fatto che Samp Roma l'arbitri Rizzoli, il miglior arbitro che c'è in questo momento in Italia. Addirittura hanno messo Orsato a fare il giudice d'area. Carlo mi guarda e dice: tanto, e allora cosa cambia? Cosa cambia? Beh, tanto di solito, come l'altra volta, di solito, no? In trasferta Roma, le squadre amano avere partite, magari in certe partite arbitri un po' più morbidi di Rizzoli, che certamente è quindi il tu arbitro. Dici a Roma, no, io non lo dico, dico però no, che dici, quelli dici che Roma, fanno dietrologia sulle designazioni, stai dicendo questo, magari due pensieri li fanno, quindi o no, stai Carlo? Dicendo questo. Ma guarda, io ti dico che il problema di Rocchi è che secondo me era proprio inadeguato, già si era visto in Champions League, perché quello che ha fatto col Galatasaray secondo me già doveva essere un campanello d'allarme e quindi doveva essere inadeguato per arbitrare una gara assolutamente importante, la più importante della stagione, quella di Torino tra Juventus e la Roma. Adesso c'è Rizzoli, sicuramente il migliore in questo momento secondo me assieme a Orsato, e il problema è che sono soltanto pochi, sono veramente molto pochi diciamo i giudici di gara all'altezza della situazione. Speriamo bene, ma poi al di là di tutto uno spera sempre che vada tutto per il verso giusto e che poi tutto sia deciso sul campo dalla forza delle squadre, basta. Poi ci possono essere degli episodi che ti possono caratterizzare e possono dar vita poi a un risultato diverso da un altro, ma se tu giochi comunque bene, se prendi il palo, trovi un portiere che è bravissimo, sbagli dei gol, nessuno se la potrà mai prendere con l'arbitro o con chiunque altro. Sì. Quando ci sono degli errori così clamorosi, e devo dire che comunque al di là di tutto a Rocchi va dato atto di aver parlato almeno per la prima volta, uno ha parlato e ha detto le cose come stanno, tra l'altro andando anche contro a quello che aveva detto Nicchi. Sì, un po' fuori tempo massimo tutti e due, Carlo. Esatto, fuori tempo massimo tutti e due, dai. Non c'è dubbio, però tra il fuori tempo massimo e non dire nulla, io al di là di quello che dice quello che ha detto Nicchi, preferisco che comunque si cominci già a parlare, cioè si cominci a comunicare. Ecco, questo è già importante, perché quello che ha detto Rocchi dall'errore di Maicon è un po' determinato. Intanto la strategia di comunicazione della Roma è stata molto aggressiva. Ma insomma all'inizio non mi pare, almeno per quello che riguarda i giocatori, c'è stato quella di Francesco, insomma di Totti, poi mi sembra che il presidente Pallotta abbia completamente annacquato il tutto e cercato di calmare un po' gli animi. Mi sembra che in quella settimana ci sia stato molto nervosismo da parte della Juventus, lì hanno parlato tutti, da Nedved che è un componente del CDA alla moglie di Agnelli, insomma hanno parlato veramente tutti quanti, eppure avevano vinto. Poi hanno cominciato a parlare tutti anche alla Roma, però. Ah, dopo, ma la Roma aveva ben d'onde di dover parlare, non solo per quello che ha subito in campo. Io la cosa vergognosa è che nessuno, non ho sentito ancora le scuse da parte della Juventus per quello che è successo fuori dal campo, perché quello che è successo fuori dal campo, specialmente in tribuna, è una cosa assolutamente vergognosa, e lì ancora devo sentire a mezza parola di scusa da parte loro. Grazie Carlo. Grazie a voi. Ciao, ciao Carlo Zampa. Ti interessa Cervellera? Cervellera? Cervellera, quello del Mani di Genoa, Empoli, no, che non l'hanno fermato, eh? Me ne frega fa l'arbitro di porta. Non mi importa nulla. Ma io so che sei interessato, no, quindi importa, te lo dico, no, mi importa Cervellera di più, lavora questa me ne frega domenica. Mi importa di più di Moratti fuori dal CDA, ma prima voglio sentire Leonardo da Trapani che sta morendo con la cornetta in mano e mi dispiace un sacco. Leonardo, buongiorno. Non c'è problema, grazie per avermi convocato. Grazie a lei. Io volevo tornare a parlare un attimo della partita di ieri sera tra Juventus e Olympiacos e Juventus, anche per riallacciarmi un attimo al suo ospite, credo si chiama il secondo che ha parlato, sì, prima, ecco, a Paolo Condò, nel senso che le occasioni del secondo tempo sono venute tante, si è centrato il portiere eccetera, ma quando la Juventus poi Allegri ha messo dentro Pereira togliendo un difensore, perché credo che questo modulo anche in campionato comincia a dare segni di spicciolamento. Soprattutto penso che un giocatore come Pereira debba essere un valore aggiunto, non un valore alternativo. E in più non sottovaluterei il fatto che la Juve non ha potuto ancora disporre di uno come Romolo per vari motivi. Sì, ma non sono sia per bravissimi giocatori, ma non sono quelli che ti cambiano la squadra. Cioè la Juventus ieri sera non ha perso perché è entrato tardi Pereira o perché non c'è ancora Romolo. Ha sbagliato totalmente il primo tempo e nel secondo tempo si è trovata questa rincorsa disperata, e a quel punto vuoi il portiere, vuoi la sfiga, vuoi qualcos'altro, la palla non è entrata, ma non è così che deve giocare in Champions League, punto e basta. Cioè non è il tipo di partita che la Juventus avrebbe dovuto fare per diverse ragioni, mi sembra che abbiamo dette tutte. Maria Antonietta da Santa Teresa di Gallura, posto meraviglioso. Buonasera. La invidio profondamente. Cosa sta facendo? Veramente adesso stavo cercando notizie, perché questa è stata una bomba per una tifosa morattiana, tifosa interista sfegatata. Il sapere che Moratti ha rinunciato alla carica di presidente onorario insieme a Gelfi, insieme al figlio, che è la vera notizia, che è la vera notizia, perché no, il figlio era l'anello di congiunzione tra il passato e il futuro. E questa cosa mi fa venire il futuro, i brividi, è Toir, ragazzi, il futuro è Toir. Fai parlare Maria Antonietta. Il futuro è Toir, sì, ma cioè, il futuro senza il passato non si può fare. Il fatto che se ne sia andato Gelfi, che se ne sia andato anche colui che controllava il 30%, non mi ricordo come si chiama, ha un nome particolare, che controllava il 30% delle quote, io ho Interchannel non dà nessuna notizia, e io ho chiamato voi per saperlo, perché è stato veramente per me personalmente un terremoto. Ma secondo me è abbastanza di facile lettura quello che è successo. Torniamo all'assemblea dei soci di due giorni fa, certifica un bilancio prefallimentare, 100+ milioni di disavanzo, che poi sono diventati meno perché c'è stata una cessione interna di marchi, eccetera, e con un mutuo che in 5 anni costerà 230 milioni all'Inter e 400 milioni di passivo in 4 bilanci. E tutto questo è stato detto dagli uomini di Toir dovuto alla cattiva gestione inaccettabile degli ultimi anni. Fatto questo, Moratti è uscito, ha detto che lui avrebbe cambiato l'allenatore, che Mazzarri doveva legare col pubblico, con l'ambiente, insomma tutto quello che non serviva in quel momento a Toir, secondo me è del tutto evidente che si è consumato lì uno strappo. Guarda, quello che volevo dirti è che Moratti non avrebbe dovuto dire quelle cose in un ruolo che era ibrido, che era ancora pseudo istituzionale. Adesso Moratti come tifoso potrà dire tutto quello che gli pare, che caccerebbe Toir, che caccerebbe Mazzarri, che caccerebbe il portiere, che prenderebbe Zeng, può dire tutto quello che gli pare. Resta pur sempre azionista, non è che ha mollato le quote. Non ha mollato le quote, è uscito dal CDA, credo che sia la sua era una questione onoraria, e quindi diciamo più che altro di facciata. È più importante il ruolo del figlio, ripeto. Sono dolorato per Maria Antonietta, disperata veramente. Sì, io sto dando un'occhiata sui social, e ci sono due scuole di pensiero tra i tifosi dell'Inter. C'è chi sta accusando Moratti di codardia, cioè è troppo facile andarsene 2 giorni dopo che si è certificato il fallimento economico dell'ultima parte della tua presidenza. E c'è chi invece dice, ha ragione, qui l'unico che non dà le dimissioni e che dovrebbe farlo chi è? È quello che resta inchiodato alla sua panchina. Ma perché? Perché dovrebbe dare le dimissioni? Così la pensano i fischiatori. Perché dovrebbe dare le dimissioni Mazzari? Questo non capisco. Mazzari, che peraltro ha preso Moratti. Sono tutte cazzate. Tu se l'hai trovato lì, l'ha confermato, gli va bene. Se lo vuole tenere, ma che diritto ha Moratti in questo momento di dire io Mazzari l'avrei cacciato via? Non hai voce in capitolo. E secondo me, Maria Antonietta, stia tranquilla, perché secondo me questo è un buon segnale, cioè che Moratti sia uscito, perché le società con due teste non possono funzionare. Convocati. Avevi fatto qualcosa, qualche dispetto a Roberto, ha fatto dei miracoli, ti ha preso praticamente tutto quello che hai tirato verso la porta. Sì, ha fatto una grande partita. Roberto per me è uno dei migliori portieri del mondo e ancora devo lavorare di più per la prossima partita a fare gol. Vediamo se fa gol, non c'è in porta Roberto, che ha una faccia un po' così, due braccia tatuatissime, un portiere bizzarro, ma di bizzarrie in questi giorni ne abbiamo lette e sentite tante, compresa quella di Robinho. Non abbiamo Robinho? Vabbè, tanto, un giorno in pretura fa niente, ne facciamo una ragione. Ne facciamo una ragione, no, perché volevo fare una. Io volevo istituire una nuova rubrica, caro Capuano. Tanto domani arrivano altre notizie. Un giorno in procura, in pretura, in tribunale, dai carabinieri, un giorno in galera. Allora, in questi giorni, in galera, Pistorius 5 anni ha fatto un affare, dai, affarone. Che poi fa 10 mesi. Fa 10 mesi. Cos'è che abbiamo? Ah, ce l'abbiamo, è tornato Robinho, è tornato da dov'era? L'hanno rilasciato, va bene Robinho. E graças a Deus tenho uma família abençoada, tenho esposa, tenho filhos e tenho milhões de crianças que se espelham em mim. E fiquei muito triste, muito revoltado com essa notícia. Então espero que os meios de comunicações tenham responsabilidade em publicar qualquer tipo de notícia, porque os meus advogados sabem que qualquer informação que for mentirosa, eles vão tomar as medidas cabíveis. E venho aqui também agradecer aos torcedores de todos os lugares que sempre me mandaram mensagens carinhosas, em especial, claro, os torcedores do Santos. E mesmo com essa notícia mentirosa e eu ficando muito revoltado, acho que isso não vai tirar o meu foco do Santos Futebol Clube e no meu bom momento aqui no clube. Vabbè, atto di desculpa, accusato di stupro di gruppo di una ragazzina di 18 anni brasiliana conosciuta a Milano, eccetera eccetera, pessima storia, vediamo come va a finire. In questi giorni, allora facciamo questa rubrica qui, la istituiamo, sì, la ufficializziamo, è bellissimo. Faremo tutti i giorni. Pistorius 5 anni a Farone, dicevamo, ha fatto fuori la fidanzata e sappiamo tutti com'è andata. Cannavaro, frode fiscale e la vicenda l'abbiamo raccontata io. Un milioncino, roba del niente. Robinho, presunto stupro di gruppo. Pianigiani, Cittadina Nazionale, evasione fiscale, indagato. 150.000 euro. Cosa però, vuoi? Il basket, sono Capuano, cosa vuoi che siano 150.000 euro? Poi. Ma. Tennisti assortiti? Zottavano le partite. Anche qualche calciatore, pare. Vabbè, calciatori lo sappiamo già, non nessuna novità. E anche aggiungo a questa rubrica la gemma di Kevin McEnroe, figlio di John Patrick, che il 15 luglio era stato arrestato a Manhattan per acquisto di cocaina e altre cosucce assortite. L'hanno beccato, poi però se l'è cavata perché nei sacchetti c'era detersivo. Sì, complimenti anche all'antidroga americana. Fate le due risate, li vede tutti seri. Complimenti anche a lui nella scelta. No, sai che di solito push fanno la prova, si vede anche nei telefilm, detto, no? La mettono sulla lingua per provare, quindi c'è un poliziotto che si è mangiato. Adesso non farlo più, è bricconcello. L'avevo fatto anch'io a 5 anni, di mangiare detersivo. Hai sì. Fatto le bolle. Luigi Parma, buongiorno. Buongiorno, soltanto grazie anzitutto della possibilità. Beh, solo grazie a lei. Qualche veloce considerazione su Juventus Allegri. Sì. Così, un'evoluzione che insomma qualcuno aveva in qualche modo già un po' predefinito, che per me non è una novità, cioè il fatto di affidare una squadra che ha vinto 3 campionati consecutivi, guidata da uno in tutta mimetica, senza significativi così, miglioramenti tecnici al Conte Max. C'è una certa differenza, perché andare in guerra col Conte Max è diverso che andarci con Conte e quant'altro, soprattutto dopo che. Però mi sembra che la guerra europea l'anno scorso non sia andata benissimo. No, è vero, no, io sto parlando, però ecco, attenzione, quest'anno si doveva migliorare soprattutto la guerra europea. mi sembra che due trasferte sì, possiamo cambiare immagini che a me vengono mi viene un attimino di sì anche perché stiamo aspettando l'UEFA su Serbia Albania quindi potremmo trovarci fuori contesto allora Luigi facciamola più dolce andare in Europa con Conti in panchina che ti dà tutta quella carica andare verso battaglie partite difficili scontri difficili con Conte è una cosa con Allegri un'altra però Allegri è un gran furbacchione cioè adesso ha un po' di difficoltà non pareggio con il Sassuolo viene dopo poi viene questa partita con l'Olympiacos io continuo a pensare che la sconfitta di Madrid sia stato un peccato capitale per la Juventus perché è stato un peccato capitale per la Juventus perdere quella partita. Vediamo se riesce ad uscire da questo buco europeo, altrimenti avrà il Conte Max avrà fallito esattamente nello stesso modo in cui fallì una settimana, un anno fa il generale. Io è da ieri sera che faccio una riflessione, ricordo una telefonata nei giorni del divorzio da Conte, quando una persona vicino a Conte mi disse, ma sai, alla Juventus hanno fatto anche i rinnovi senza nemmeno informare l'allenatore. E non credo ce l'avesse coi rinnovi del terzo portiere così. E mi è venuto in mente ieri sera, perché poi noi dobbiamo sempre tornare a quel discorso lì fatto da Conte a maggio. Sì. Cioè, questa è una squadra che non ha margini di crescita, anzi. Ho l'impressione che il combinato di queste due cose, cioè anche il fatto che Allegri sia un allenatore diverso, meno feroce, possa produrre un risultato non positivo. Non dimenticare che c'era una rottura seria e netta tra Allegri e i suoi datori di lavoro e tra Conte e i suoi datori di lavoro, cosa che insomma è più o meno ufficiosa, però è reale. Detto questo, il ristorante dell'Olympiacos bastavano 10 euro. Bastavano nettamente 10 euro. Non togliere ogni alibi. Per mangiare gli Schiattone e tutti quelli come lei, che ieri sera hanno fatto finta di dormire. Per mangiare il souvlaki bastava 10 euro, 10 dracme bastavano e avanzavano. Ragazzi, torniamo domani. Grazie Giovanni Capuano, a presto. Grazie a te. Al più tardi, a domenica alle 5. Comunque ti aspetto quando vuoi. Roberto Scaltritti. Arriva lui, Roberto, ancora, incredibile! Tutti i giorni c'è Scaltritti. In regia, Claudia Scattoni, in redazione, Alessandro Marco Tulli. E voglio confermatissimo per ogni edizione di Tutti i Convocati, compresa quella della domenica. Ciao a tutti. Livorno Crotone, 10. Bari Modena, 11. È 1-0, 1-1. Viva l'ignoranza! Ciao. Stai buono, che fate capire? La collera! La serie B! Come per la carica purtroppo! Il nostro porta fortuna! Bello, bello! Quando ci sei tu, il Napoli vince sempre! Martina, tutto a posto! Insomma, ce n'ha! C'ho una notizia buona e una cattiva! Anzi! E quale vuoi sapere prima? A favore, no, continua! C'ho due biglietti di tribuna centrale, gli ultimi due disponibili per Atalanta! E bello, andiamo in centro, no? E quella cattiva la vuoi sentire? Dimmela! I due biglietti, quelli bellissimi, disponibili, centralissimi per Atalanta, se l'hai mangiato ciuccio!